È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:34, 800 24 00 24, è tempo di compravendita, cose di cui io non mi scandalizzo per niente, ma insomma ci sono movimenti i più vari, si assiste a un gioco pazzesco in cui in ballo c'è la fiducia per un voto, per due voti, per tre voti, oppure la sfiducia, che politicamente poi cambi qualcosa, chissà. Dar via le frasi agli attori. In Parlamento tre voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no, per Bacco, che trovata, eh? Chi l'avrebbe pensato? Il do, il... Do, do. Ut des. Sì. Oh, dico, questo do adesso, do dove si trova? Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Ah sì? Già. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare l'interesse dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia e il voto. Cose d'altri tempi queste. Dopo passata. Ah sì, dopo passata. Sormontata. Sì. E non sarà così, poi, per carità, non ci saranno né 350.000 o 500.000 euro che dice Calearo, non ci sarà il pagamento del mutuo per Razzi, non ci saranno forse nemmeno le consulenze di cui parlavano oggi alcuni giornali, cioè alcuni deputati del centrodestra che formano un piccolo gruppo, una sorta di unità speciale per convincere i deputati incerti, pagandoli a suon di consulenze. Non ci sarà tutto questo, però che il signor Scilipoti, Domenico Scilipoti, ci voglia far credere, come ha fatto oggi in una surreale conferenza stampa insieme a Calearo e insieme a un altro che si chiama Cesario, che da tempo è passato dal Partito Democratico a Berlusconi, che la questione sia l'agopuntura, cioè il fatto che le sue posizioni sulla medicina alternativa, sull'agopuntura e su altre cose non siano state considerate dall'Italia dei Valori, francamente mi metto a ridere. Ma lei pensa che io posso stare ancora all'interno di un partito dove si parla di medicina non convenzionale, di agopuntura e si dice che sono degli stregoni? Lei pensa che io posso stare all'interno di un partito che si parla di parafarmacie e si dice che quello che dico io non ha valore perché il responsabile della sanità dice delle cose completamente diverse? Scilipoti, la medicina alternativa, l'agopuntura, per carità, cose serissime. Però lui non vuole stare in un partito dove l'agopuntura è considerata una stregoneria. Razzi, che oggi è passato a Io Sud, Noi Sud, non capisco più niente ormai con le sigle. L'Abate, tu hai capito che differenza c'è tra Io Sud e Noi Sud? Io ho capito che c'è una grandissima differenza anche tra l'onorevole Scilipoti e l'onorevole Cesario che citavi prima. Cioè, perché la differenza qual è, scusami? È una grandissima differenza. Dimmi. Nel curriculum. Intanto, presento Tommaso Labate del Riformista, che si trova alla Camera in attesa di una epocale conferenza stampa che dovrebbe tenersi da qui a poco, in cui forse il nostro amato Grassano dirà la sua, scioglierà l'ultima riserva, pare, presentandosi sempre forse insieme a Pionati, credo che dovrebbe votare la fiducia a Berlusconi, credo, poi non si può più scommettere nemmeno sulle cose che sembrano certissime. Prego. Il condizionale, caro Cruciani, è d'obbligo anche sulla tenuta della conferenza stampa, che per cui però stanno allestendo la sala, e quindi quantomeno Pionati ci sarà con o senza Grassano, che comunque al momento è confermato. Ma tornando al discorso di Cesario che ti dicevo prima, se l'onorevole Sciripoti è esperto di agopuntura, sì, nel suo curriculum l'onorevole Cesario, passato dalla Margherita e quindi al PD e poi all'Apico Rutelli, nonché fedelissimo storico di Ciriaco De Mita, ha un altro grande blitz, cioè nel 2008 a San Giorgio a Cremano riuscì a frapporsi tra un pitone di 3,5 metri e un'automobile che il pitone di qui sopra voleva praticamente aggredire. Lo stesso appunto Cesario fu il temerario cittadino che praticamente sventò l'assalto di questo pitone sfuggito, non si sa da quale circa, un'automobile. E come, perché si trovava lì per caso? Si trovava lì per caso e praticamente fu uno dei più temerari. Una sorta di eroe che impedì che il pitone, non so, prendesse al polpaccio qualcuno, qualche malcapitato. Il guidatore della macchina. Eccoci qui dunque, questa è la Zanzara, 18.39, 800 27 800 24 00 24. Non so perché ho detto 27, perché sono un po' confuso con questi numeri. Dicevo di Razzi, mitico Razzi. L'abate, spiegaci innanzitutto chi è Razzi, no? Perché qualcuno l'ha dimenticato. È un deputato, credo, eletto nella circoscrizione eletto Europa. Eletto nella circoscrizione Europa. Qui abbasso la voce perché ho Antonio Di Pietro alle mie spalle, perché non vorrei che sentisse la conversazione. Allora Razzi. Ma come Di Pietro alle tue spalle? Scusa, ci dici questa cosa così all'improvviso? No, sta praticamente salendo, è appena entrato in ascensore qui alla Camera. Comunque il discorso, torno al discorso, sì, della presenza di Razzi in Italia dei Valori, perché questa storia del mutuo che tu giustamente citavi prima, in realtà un tormentone dalla passata legislatura. Sì, lui l'ha smentita, l'ha sempre smentita. Anzi, in realtà non è che l'abbia sempre smentita, ha fatto credere che qualcuno volesse pagare il mutuo, poi ha detto di no, oggi ha detto di nuovo che non è vero niente, che è un gioco, una burla. Vero, vero o falso, che forse circola la storia che c'è questo benedetto mutuo che Razzi deve pagare da anni, e che lo stesso Razzi fosse tra i più disperati nel 2008, quando il governo Prodi si trovò senza fiducia e quindi lui stesso doveva presentarsi, come dire, alle urne insieme agli altri. Lo stesso Razzi all'epoca pare che non avesse, come oggi d'altronde, degli ottimi rapporti con il leader del suo partito, con Antonio Di Pietro, tant'è che ebbe a confidare ad autorevoli esponenti dell'allora maggioranza che si sarebbe trovato con le elezioni anticipate senza una lista, perché Di Pietro non lo voleva ricandidare, e senza quindi la possibilità di pagare questo fantomatico mutuo. E adesso la storia, leggenda metropolitana o adamantina verità che sia, la questione ritorna oggi, alimentata anche da un'intervista che Di Pietro ha fatto domenica a Corriere della Sera, dicendo, mentre con Sciripoti ha usato il tema del Giuda, Razzi, poverino, ne voglio parlare, sotto pressione. Sì, pressioni fortissime, eccetera. Poi più tardi lo chiameremo, ma insomma, come avete sentito da queste parole di Tommaso Abate, che è alla Camera, e come avete sentito dalle voci prima di Sciripoti, si sta assistendo, e sto parlando seriamente, a qualcosa di penoso, diciamo la verità, con questi piccoli spostamenti che poi alla fine politicamente non cambieranno nulla. Sì, certo, ci potrà essere un segnale, la sfiducia certamente è importante, sfiducia sì o sfiducia no, ma insomma alla fine si tratta di piccole e ogni tanto misere storie personali. A proposito di Razzi, Alessandro Giglioli di Piovono Rane, dell'Espresso, mi ha mandato, dicendomi divertiti, questo audio dello stesso Razzi, credo che sia settembre dell'anno scorso, settembre 2009, settembre 2010, non lo so, comunque pochi mesi fa. Razzi. Io sono eletto nel partito dell'Italia dei Valori e tale voglio rimanere. Io, come ho già detto a loro, fino alla morte, sperando che Di Pietro, il mio presidente, mi tiene. Fino a che lui mi tiene, io sono lì. Fino alla morte. Allora, ci è arrivato un messaggio di Pionati, caro l'abate, dicendo che fra poco, ma lo saprai forse anche tu, ci sarà questa conferenza stampa con il mitico Grassano. Spieghiamo perché questo Grassano è diventato mitico. Ex leghista, anzi subentrato in Lega, ma in realtà già era stato mandato via dalla Lega per una storia strana in cui era stato coinvolto, che storia giudiziaria che lo aveva un po' bloccato nei suoi rapporti con la Lega. Grassano fu inseguito da una troupe di Exit qualche settimana fa, proprio per sapere, insomma, quale sarebbe stato il suo voto, fiducia o sfiducia. Grassano. è entrato nell'alleanza di centro di Pionati, quindi ce lo conferma. Scusatemi, ma Pionati ci ha detto di sì. Lei che... ho la ragazza che mi sta aspettando. Quello che ha detto Pionati ce lo conferma, eh? Comunque fisico atletico, onorevole. Me lo dica, lei sta con Pionati oppure no? Solo questo e non la seguo più. Lei sta con Pionati o sta con Tanoni? Io in questo momento sto col governo, forse, ma non lo so, vedremo. Le offriranno un incarico. Scusate, vede che non mi avete voluto. C'è la mia ragazza che mi sta aspettando. Ce lo dice adesso cosa fa? Buona giornata. Dopo lo abbiamo un po' fregato l'altro giorno perché lo abbiamo chiamato al telefono un po' a sorpresa in diretta e ci ha detto che c'è qualcuno dall'alto che gli ha detto di non parlare fino ad oggi, immagino, fino a pochi istanti fa, fino ad adesso quando farà questa conferenza stampa insieme a Pionati. Mi hanno detto di non rilasciare dichiarazione, io non rilascio dichiarazione, però mi sto divertendo molto. E vabbè, l'abate lo vedi Grassano? Ancora non spunta, ancora non si vede. Sarà dopo aver perso, come dire, sarà l'ennesima, come dici te, l'ennesima grassanata del bello Antonio. Grassano, il paese dipende da Grassano. Fra l'altro oggi, per dire quanto le notizie anche sui singoli parlamentari, che adesso, rivedendo l'adagio di Andy Warhol, dovremmo parlare dei 15 giorni di popolarità, piuttosto che dei 15 minuti di popolarità, oggi è stata una giornata piena di colpi di scena. Se ci fosse un giornale che si chiamasse, non dico il riformista come il mio, ma il grassanista, avrebbe materiale per riempire pagine e pagine. Per esempio? Perché alle ore 11 il Grassano di qui sopra avrebbe avuto una chiacchierata con Italo Tanoni dei Liberal Democratici, durante la quale avrebbe riconfermato la sua intenzione di votare a favore della sfiducia al governo. Se non che poco subito dopo un lancio di agenzia che ventilava l'ipotesi di questa conferenza stampa, che adesso Pionati vi ha confermato anche a voi, lo stesso Tanoni è stato ricontattato dalle agenzie a cui ha affidato il suo misero non possum, cioè non lo posso mica tenere legato. Il problema è che la situazione cambia di ora in ora, perché mi riferiscono autorevoli fonti dell'ADC, cioè dell'alleanza di centro di Pionati, cioè di quel partito che potrebbe andare da Deborah Caprioli, sempre autorevoli a Grassano, fonti. Sì. Autorevolissime fonti, che lo stesso Grassano vive in un momento, sta un pochino sotto shock, c'è cioè un po' di... Ma perché cosa è sotto shock? Non ho capito, la fidanzata, la vita privata, i rapporti con la Lega, con Bossi, sotto shock? L'altro giorno ha detto a te nel tranello telefonico che gli hai teso, che lui stava godendo come un mazzo, tutti quei giornalisti che andavano dietro, si vede che alla lunga questo godere come un matto gli ha provocato qualche specie di scompenso psicopolitico. Perché spesso di questo si tratta, al di là dell'ago puntura di Scilipoti. Che poi è curioso, vorrei capire quante persone dell'Italia dei Valori, perché così ha detto Di Pietro ieri in un'intervista al Corriere della Sera, si sono fatti curare con l'agopuntura o comunque con la medicina alternativa. Pare Silvana Mura, pare. Che è la tesoriera del partito, perché dovrebbe valere doppio. E comunque, insomma, pare che in questi due anni nessuna proposta sull'agopuntura, sulla medicina alternativa di Scilipoti è stata filata dall'Italia dei Valori o comunque è stata supportata, però Scilipoti, che è pure medico, ha potuto applicare le sue teorie a qualcuno dell'Italia dei Valori. Traffico, torniamo subito. Comprami, io sono in vendita e non mi credi. Il cliente che l'hai chiamato non è al momento raggiungibile, la invitiamo a riprovare più tardi. È raggiungibile, come canta Viola Valentino, e come ci fa sentire la segreteria telefonica di Antonio Razzi. Non mi fido, lo voglio chiamare in diretta qui al volo. Razzi, accenda il telefono. Stasera non ci sfugge fino alle 21. Tommaso Labate, è arrivato Grassano alla camera? No, non è arrivato Grassano, ma ti posso dare un'altra notizia. Tra i giornalisti della sala stampa che stanno aspettando l'arrivo di Grassano insieme a Coppionati, si è appreso posto l'onorevole Antonio Di Pietro. Ah, Di Pietro, ma avvicinati un attimo a Di Pietro, un attimo. Ti riesci a avvicinarti a Di Pietro? No? Mi avvicino, provo ad avvicinarmi, spero che non cada la linea. No, se cade, pazienza. Così, facciamo un tentativo con Di Pietro per capire come ha reagito a Scilipoti e a Razzi, usciti dal partito. Adesso glielo chiediamo. Fagli la domanda direttamente tu, come ha preso queste conferenze stampa di oggi, queste dichiarazioni di oggi, epocali, importantissime per il futuro dell'Italia, forse per le sorti del governo, non sono sicuro nemmeno per quelle, però... Adesso glielo chiedo perché ce l'ho qua davanti, mi spiego quello lui. Onorevole sì. Di Pietro, sono in collegamento telefonico con la Zanzara di Radio 24. Ci domandano come ha preso, diciamo, Razzi... Scilipoti... Perché ce l'avete con la medicina alternativa? Io te lo passo, Cruciani, sì, vediamo. Sì, sì, sì. Di Pietro! No comment. No comment, non vuole commentare. Però non si può proprio parlare. Niente, non vuole parlare di Scilipoti. Non vuole aggiungere altro. A che cosa? Hanno comment, hanno comment. Hanno comment. Poi immagino l'inflessibilità dell'Italia dei Valori rispetto ai Giuda che tradiscono. Vabbè, bocchino del giorno, va, sigla. Bocchino, c'è qualcosa da dire su Bocchino importante? Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Allora, da ieri Bocchino, Berlusconi bis, perché Berlusconi è stato eletto dagli elettori, si può fare anche senza dimissioni, tutto il contrario di quello che diceva prima, però la politica è anche questo. Rispetto ad un programma del genere non abbiamo preclusioni nei confronti di Silvio Berlusconi alla guida del governo, anche perché è stato scelto dagli elettori. Anche l'UDC sarebbe d'accordo. E sull'UDC poi Bocchino diceva no, l'UDC è una posizione diversa perché era all'opposizione. A proposito del famoso incontro con Berlusconi, Bocchino fino a ieri sosteneva questo, sentite. Ma la notizia di un incontro tra me e Berlusconi non è fondata, credo che sia più facile che ieri sera siano stati a cena insieme Hillary Clinton e Assange. E però esce da qualche minuto questa agenzia, va detto con grande chiarezza che l'incontro c'è stato martedì scorso a Roma nell'ufficio di Berlusconi, questo in un videomessaggio di Bocchino sul sito di Generazione Italia. Il nostro senso di responsabilità ci ha imposto un ultimo estremo tentativo, ma è prevalsa ancora una volta l'inaffidabilità e l'attaccamento alla poltrona che dovrebbe invece venire in secondo piano rispetto all'interesse del paese. Questo fa capire, l'abate, non so se anche tu hai le stesse notizie, che mi sembra che le mediazioni dell'ultima ora sono ancora una volta fallite, o no? Sì, sono una volta fallite e a quanto mi risulta all'ufficio politico che Futura Libertà ha avuto stamattina, cioè al confronto che Fini ha avuto con tutti i big del partito, si è stata messa all'ordine del giorno il tema, come dire, vedete che non è il caso di fidarsi con Silvio Berlusconi perché stavolta, e questo che si dice negli ambienti di Futura Libertà e anche Fini, invece del metodo boffo, fantomatico, avrebbero applicato il metodo Renzi, cioè invito a cena con Spifferata, e purtroppo è rimasto vittima Bocchino che praticamente si è lasciato sfuggire. Cioè tu dici l'incontro tra Bocchino e Berlusconi doveva rimanere riservato e Bocchino evidentemente si è fidato di Berlusconi scomodando il paragone della cena tra Assange e la Clinton. Magari domani scopriremo che ieri Assange e la Clinton è andata a trovare Assange in carcere, magari hanno avuto al pari di Berlusconi e di Bocchino uno scambio di vedute non proprio positivo. Massimo da Bolzano, 800 24 00 24, ancora non è iniziato nulla là. L'abate, ci colleghiamo più tardi allora, quando si ha qualche cosa di concreto, quando si palesano Grassano e Pionati. Ciao, a dopo. Va bene, ciao. Massimo da Bolzano. Sì, buonasera. Dica. E intanto mi lasci drammatizzare un attimo la situazione. Complimenti per gli interventi su Rete 4. Massimo, però andiamo al sodo, qui parliamo di altre cose. Guardi, le cose stanno così. Io ho 46 anni, non è che sono tanto vecchio, ma neanche tanto giovane. Riporto solo qualche mese fa la notizia, cioè durante uno dei governi balneari che la nostra Repubblica ha sempre costellato, no? È sempre stata costellata a questi governi, governo Andreotti, anni 60, pronto? La sento, dica. Sì, governo balneare, anni 60, Andreotti, Presidente del Consiglio, viene posta la fiducia e si salva per due voti dell'SVP, io sono di Bolzano, e all'SVP questi sono stati conosciuti praticamente le indennità durante la Seconda Guerra Mondiale della partecipazione dei miei concittadini. Sì, no, Massimo, ho capito, ma guardi, sì, che la posizione, per esempio, della, che sì, ha espresso la SVP, la Südtiroler Volkspartei, dell'astensione, in cambio di cose concrete per il territorio, non mi scandalizza per niente. Furono sì, ho capito benissimo quello che vuole dire, ma infatti non mi scandalizzo nemmeno io per questo. Andrea, provincia di Modena, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Dica. Niente, io sono un cittadino che è iscritto al Movimento 5 Stelle, sì, di Modena, e che da 2 settimane è stato epurato da Grillo e dai suoi fedelissimi. Non so cosa significa epurato, me lo spiegherà più avanti dopo il giornale radio 800 24 00 24. Credo che non si possa, all'interno del Movimento 5 Stelle di Grillo, non è che si possa essere epurati, cioè, comunque ne parliamo dopo. Siamo qui, 800 24 00 24, David Parenzo! Eccolo! Reduce dalla presentazione di un libro, quello dell'amico Gianluigi Nuzzi, Metastasi, l'Andrangheta al nord tra pentiti e altre storie. Allora, qui siamo tutti appesi, come sai, non solo a Grassano, che tra poco dovrebbe fare una conferenza stampa insieme a Pionati, dunque dovrebbe essere ufficiale. Ebbene sì, alla fine ha deliberato. Imperdibile, conferenza stampa, ci sarà la polizia a cavallo fuori per trattenere le masse. Credo sì, e pare che però non ci fosse nessuno fino a qualche secondo fa, dovrebbe apparire tra poco anche il nostro amico Pionati insieme a Braccetto. Hai detto la parola Grassano e ti abbassavo l'ambulanza, infatti. Poi oggi è una giornata storica perché due deputati dell'Italia dei Valori, qui bisognerebbe fare un ragionamento su come Di Pietro ha scelto i suoi deputati, bisogna dire la verità, perché Di Pietro poi protesta, dice Giuda eccetera eccetera, e pare che si voglia rivolgere alla magistratura per ipotesi di corruzione, cioè la compravendita dei parlamentari potrebbe portare un'ipotesi di corruzione, cosa che non esiste naturalmente, però dovrebbe guardarsi un po' in casa, soprattutto dovrebbe guardarsi allo specchio. Come ho fatto a scegliere alcuni deputati, in base a che cosa li ho tra virgolette assunti? Prometto che domani glielo chiederò, lo prometto ai tuoi radioascoltatori. Chiediglielo, benissimo, perché lo incontri domani? Domani Bunga Bunga. Ah, il Bunga Bunga, certo, Bunga Bunga Bologna. Prometto, sì, che glielo chiedo, Chiediglielo. Sputami in faccia se non lo chiedo. Domani facciamo un collegamento speciale con Antonio Di Pietro dal Bunga Bunga Party, dalla serata del Bunga Bunga a Bologna. Intanto i titoli del TG3. È di nuovo muro contro muro sulla fiducia. Finiani, Berlusconi si dimetta prima del voto. Il PDL è una ipotesi che non esiste. E caccia al voto, due deputati lasciano l'Italia dei Valori, bagarra alla Camera, Bersani, scandaloso mercato, Di Pietro in diretta al TG3. Callisto Tanzi condannato a 18 anni di carcere per il crack Parmalat, condanne anche per altri dirigenti, dovranno risarcire 2 miliardi di euro. A Londra studenti assaltano piazza del Parlamento contro l'aumento delle tasse universitarie, scontri con la polizia, grave un agente. Inchieste della Procura e della Corte dei Conti sulla Parentopoli romana, Bufera su Alemanno che si difende, tutta una montatura politica. Putin in difesa del fondatore di Wikileaks, perché avete arrestato Assange? Questa la democrazia, chiede il presidente russo. La protesta dei poliziotti contro Italia arriva anche ad Arcore, davanti alla villa di Berlusconi, manifestazioni in tutta Italia. Comprami, mitica canzone. Viola Valentino, come dimenticarla? Viola è il mio nome preferito. Che meraviglia. Comprami. Totò. Ci vuole Totò a questo punto. In Parlamento 3 voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no, Perbacco, che trovata, eh? E chi l'avrebbe mai pensato? Il do, il... Do, do. Ut, est. Sì, sì. Oh, dico, questo do, do adesso, do, do, do es, dove si trova? Io ti do tre voti a te e tu mi dai tre appalti a me. Ah, sì? Che già... Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare l'interesse dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia e il voto. Cose d'altri tempi queste. Dopo passata, passata. Ah sì, dopo passata. Passata. Sormontata. Sì. La cosa più incredibile è che sul sito del signor Scilipoti, Domenico Scilipoti, c'era questo video da un mitico film di Totò e poi questo video è stato rimosso. Chissà perché. Ma ti farò ridere ancora di più quando senti le parole di Caleano, perché oggi c'è stata una conferenza stampa surreale, quella tra... che ha visto protagonisti tre personaggi, Massimo Caleano, si chiamavano per nome tutti e tre, Mimmo, Massimo... e non so quell'altro come si chiama, è Bruno, è Bruno, no, è Bruno. Bruno, Mimmo e Massimo, che stanno per Bruno Cesario, che è esponente, ex esponente della Margherita, poi del Partito Democratico, passato col centrodestra, Mimmo, che sarebbe Domenico Scilipoti, e Massimo, che è Massimo Caleano. Cosa unisca queste tre persone è un mistero, cioè in realtà Cesario e Caleano sono stati per un periodo nell'API di Rutelli. È molto complicato seguire queste cose. Comunque i tre hanno fatto una conferenza stampa insieme, davvero per motivi oscuri, perché hanno formato un nuovo gruppo, caro caro Parenzo, sì. Mancava. Movimento di responsabilità nazionale. Ma come? È così. Movimento. Dai, no, è ride. Uscito già dall'API. Non ride. Sto cercando Rutelli, che c'entra l'API? No, è già uscito dall'API di Rutelli, Caleano. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, quindi è uscito da là e ha formato un... Dimmi il nome, che è meraviglioso. Movimento? Di responsabilità nazionale. Che ambulanza, ambulanza! Che ricorda i responsabili, i mitici responsabili di Pionati, perché in realtà qualche collegamento con l'operazione dei responsabili di Pionati c'è. Ah, c'è. Perché sì, Caleano è stato presente pochi giorni fa alla... presentazione insieme a Deborah Caprioglio, ti ricordi, no? Della specie, come di, no? Una specie di congresso, adesso non mi ricordo bene che fosse, congresso della di un'altra sigla, se, facciamo mente locale, come si chiama il partito di Pionati, per carità? Alleanza di Centro. Alleanza di Centro per l'Italia. Hai capito? Poi c'è anche Noi Sud, no? Ah, aspetta, quello è Razzi, un altro discorso. Poi aspetta, mettiamo, cerchiamo, se no mi confondo. Se no mi confondo, ma la cosa più incredibile è che uno dice, fa la conferenza stampa, no? Cesario, Scilipoti e Caleano, questo trio, fanno conferenza stampa, uno può immaginare, votano tra l'altro in diretta su CorrierellaSera.it. Sì, non so se, non so se, non so se... Cose clamorose come le due torri. È uguale. E allora uno si aspetta, questi tre voteranno allo stesso modo, no? La sfiducia. O la fiducia. E invece no, senti. In questo momento, come diceva l'onorevole Scilipoti, siamo su tre posizioni distinte e quindi questo vi aveva pure messo in confusione, perché io sono convinto di astenermi, lui è convinto di sfiduciare il governo, mentre l'amico Cesario voterà sicuramente la fiducia. Ma cosa? Fanno la conferenza stampa insieme e votano in maniera diversa, in tre. È una cosa meravigliosa. Uno la fiducia, Cesario, Scilipoti la sfiducia. In realtà non è nemmeno così, perché poi Scilipoti fuori dalla conferenza stampa dice che vota la fiducia, dentro fa dire a Caleano che vota la sfiducia, in realtà forse potrebbe astenersi o forse no. Invece Caleano è sicuro che si astenga, almeno. È una cosa pazzesca. Tu sai il motivo vero per cui Scilipoti, che fra poco avremo ai nostri microfoni, dove sei? Sul taxi? Dove sei? No, sono alla stazione Termini di Roma, per Bologna. Benissimo. Allora, Scilipoti, il vero motivo per cui ha litigato, sembra, con Di Pietro, è la medicina alternativa. È un tema centrale per il futuro del paese, però. L'agopuntura. Non fare ironia su questo, perché è un tema centrale. No, ci sono migliaia di persone che soffrono di agopuntura. No, ma perché? Adesso io però. Non si può scherzare sull'agopuntura. Governo deve cascare sull'agopuntura, non c'è dubbio. Che Scilipoti ci venga a raccontare che il vero motivo per cui lui esce dall'Italia dei Valori è che nessuno se l'è filato sulla vicenda dell'agopuntura, francamente. Scilipoti. Ma lei pensa che io posso stare ancora all'interno di un partito dove si parla di medicina non convenzionale e di acupuntura e si dice che sono degli stregoni? Lei pensa che io posso stare all'interno di un partito che si parla di parafarmacie e si dice che quello che dico io non ha valore perché il responsabile della sanità dice delle cose completamente diverse? Sono cose fondamentali. Non posso più stare alla Zanzara perché non ti occupi della foca monaca, te lo dico subito, Scilipoti, tra l'altro, conclude questa meravigliosa conferenza stampa in cui parla dell'interesse dei figli e dell'Italia, sì, con la questione del travaglio interiore. Voi state banalizzando tutto. Noi abbiamo un travaglio interiore. E soltanto la malafede può far pensare che noi già a prioristicamente abbiamo deciso cosa fare. Cioè dire, noi abbiamo un travaglio interiore che molti non conoscono e non sanno che cosa sia, perché la coscienza è una cosa seria. Molti parlano un linguaggio che non capiscono e utilizzano delle parole senza dare significato. Solo alla Zanzara si può passare da notizie molto serie come la liberazione di Sakinè al trio Calearo Scilipoti Cesario. No, ma guarda che questa conferenza stampa è incredibile, eh? No, ma mi hanno ci sono un sacco di la camera è presa d'assalto da centinaia di sembra di stare al concerto di Madonna. Tutti i guarda come conclude Scilipoti, guarda come conclude: che il Signore ci assista. Che vuol dire il Signore ci assista? La politica, il Signore ci assista. Concludo dicendo, e abbiamo concluso dicendo questo, che il Signore ci assista, perché io sono un cristiano e sono un moderato, e questa è la mia riflessione utile. Grazie. Ma scusa, hai capito, Parenzo? Sì, sì. Il Signore ci assista, sono un cristiano. Ho capito, ma uno non è che. Senti Di Pietro come cosa ha detto, come ha reagito, furibondo. Io avrò perso 3-4 parlamentari in 10 anni di vita politica, altri ne hanno perso tanti ancora, ma voglio dire una cosa in più, Gesù Cristo, che era un padre eterno, ogni 12 ne perdeva uno per strada, io sono un povero Cristo, non è che posso sapere prima, dentro la testa, che cosa hanno queste persone. Beh, insomma, adesso Di Pietro, bisogna pure fare le proporzioni, no? Un partito come il suo, in cui comunque c'è un controllo abbastanza ferreo, no? Forse potrebbe scegliere i deputati in maniera più degna, e poi il paragone con Gesù Cristo e qualcosa mi pare un po' irriverente, così, a occhio, per carità, senza. Sì, magari un tantinello, però siamo sotto Natale, per cui ci sta, no? Ma poi Di Pietro dovrebbe prendere a schiaffi se stesso, una volta presi a schiaffi. Però d'altra parte come fai a controllare ogni singolo deputato? No, no, perché chi perché poteva mai pensare che un osteopata, no osteopata, scusami, un agopuntore osteopata, sì, uguale, legasse la questione di fiducia a un ago? Però Di Pietro dovrebbe fare questo, guarda. E quindi menatevi da solo, e quindi menatevi da solo, e quindi menatevi da solo, e quindi menatevi. Te lo ricordi, no? Mitico. Si dà gli schiaffi da solo. Splendido. Mamma mia. Che giornate. Che giornata, che. Semplice. Borsa. Vi salutiamo e benediciamo, amate pecorelle. Altre questioni epocali, caro Parenzo, perché nei prossimi giorni la Zanzara cercherà di dirimere una questione che ci preme molto. perché nei giorni scorsi abbiamo annunciato, perché ce l'aveva comunicato lui, noi fino a prova contraria, il divino fonte, quando... fonte attendibile, no? No, fonte, ma in questo caso sì, quando deve, come dire, saltare i suoi successi, sicuramente fonte attendibile. Lo stesso divino, tramite sempre la cancelleria per la sua cancelleria privata, ci ha comunicato che era stato eletto segretario dei radicali a Genova. Lui si è eletto da solo? No, non questo non lo so, adesso tu vai già avanti. Oggi so, però addirittura il segretario dei radicali, Staderini, ha dovuto diramare un comunicato in cui sostiene che non è vero nulla, che non esiste nessuna segreteria dei radicali a Genova, che non c'è stata nessuna elezione. Controreplica dello stesso divino, sempre a mezzo della segreteria, che dice: Staderini si deve rimangiare tutto, mi deve chiedere scusa perché in realtà io sono stato eletto, eccetera. Nei prossimi giorni cercheremo di svelare. Ma da chi è l'arcano? Non lo so, non lo so. Noi, noi abbiamo proclamato Telma. Ma chi, noi chi? Era lui da solo, è una cosa pazzesca. Dai, siamo candidato, poverino. Intanto, collegamento sempre 800 24 00 24 con l'evento, direi, di chiusura con Tommaso Labate dalla Camera dei Deputati, dove cerchiamo di capire un'altra cosa, un altro dei misteri, direi, degli ultimi mesi. Grassano si è presentato insieme a Pionati o no in questa famosa conferenza stampa comunicata a tutte le agenzie, eccetera? Labate, fino a 120 secondi fa, cioè il momento in cui io con numerosi altri colleghi che occupavano la sala stampa ho abbandonato Montecitorio, di Grassano non c'era alcuna traccia, ma c'è un'indiscrezione, diciamo, ancora più curiosa, che rende fitto il mistero, che tra l'altro combacia con la comunicazione che lo stesso Pionati aveva fatto alla Zanzara in trasmissione, cioè la conferma della conferenza stampa. Cioè, Pionati c'era e addirittura pare che sia andato a cercare, con bagni compresi, il misterioso Grassano, che però non si è materializzato alla Camera. Ricordiamo che già una volta, durante una conferenza stampa già convocata, Grassano alla fine ha marcato visita, di lui non ci sono state più tracce. Fammi capire bene, Labate, cioè, una conferenza stampa convocata da Pionati con la certezza di avere Grassano, e Grassano si è dato latitante. Esatto, Grassano si è dato latitante. Naturalmente il buon Pionati avrà pensato in buona fede a tutte le opzioni, comprese quelle che sicuramente che Grassano abbia avuto, magari un andato a sciacquarsi la faccia, lavarsi i denti, eccetera eccetera. Ha cercato anche nei bagni di Montecitorio. Risultato, Grassano non c'è stato. I giornalisti stanno lentamente abbandonando la sala stampa. Niente. E questa conferenza annunciata per l'ennesima giravolta di Grassano per adesso non ha avuto luogo. E va bene. Nessuno colpi di scena. No, colpi di scena con Grassano. D'altra parte, ringraziando l'abate, noi di Grassano cosa ci ricordiamo? Grazie a voi. Ci ricordiamo soprattutto questo. Ma cos'è che mi impedisce di parlare? No? Il divertimento che mi danno tutti i giornalisti a cercare. E più i giornalisti mi cercano e meno io parlo, e più mi diverto, straordinario, mi diverto come un pazzo, ma sai che è una cosa incredibile, io da solo che tengo sulla corda tutti i giornalisti nazionali, godo come un pazzo. E vabbè, caro Parenzo, siamo messi che così. Che circo. Allora, però, qui le cose si fanno serie, perché sì. Noi vogliamo sapere dall'onorevole Domenico Scilipoti, che ha lasciato l'Italia dei Valori, cosa davvero è successo. Dunque, ci colleghiamo con il suo studio a Montecitorio. Scilipoti, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Bene. È un po' provato? No, un poco stanco, ma non provato. Stanco, vabbè, certo. Chi l'avrebbe mai detto, no? Essere al centro di questa tempesta. Effettivamente, per un deputato di quarta fila, veramente è qualcosa. Vabbè, adesso non si butti giù, quarta fila, perché quarta fila? Quarta fila perché ci sono altri che parlano il linguaggio della politica da diversi anni e dovrebbero essere molto più responsabili di me. A chi si rivolge soprattutto? Ma a coloro i quali che utilizzano non il dibattito politico, ma mettono e buttano del fango su parlamentari che cercano di ragionare e che, lo dico una voce forte, che non hanno portato il cervello all'ammasso. Lei dice: io non ho portato il cervello all'ammasso, ma chi è che la insulta di più di tutti? A parte le cose su Facebook, le mail che arrivano, io qua ho alcune frasi abbastanza significative sul suo sito, per esempio sul suo profilo Facebook, ho cliccato su mi piace per poter scrivere ciò che penso di lei, quando si guarda allo specchio non le viene da sputarsi in faccia, si vergogna, questo per carità, questo certo fa parte della... Fa può parte. Essere anche accettato, la cosa più grave è che arrivano dei messaggi per dire... forse è bene spararti alle spalle, oppure sei un traditore e dovresti morire. Ma questo chi lo dice? Esponenti politici? Questi sono sono linguaggi che vengono dal popolo, perché la politica parla il linguaggio dell'odio e non fa capire alla gente che la dialettica è importante, ma è importante la dialettica e che il politico non porti il cervello all'ammasso e cominci a riflettere. Senta Scilipoti, ma lei ce l'ha soprattutto con Donati. Donati, che cosa le ha detto esattamente? Mi può ripetere le parole? Scusi, io non ce l'ho con nessuno, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Ecco, diciamo che Donati se l'è presa molto per questo, per il fatto che lei è uscito dall'Italia dei Valori e che probabilmente non voterà la sfiducia a Berlusconi, poi adesso sulla fiducia parleremo. Ma che cosa ha detto, se è di grave, Donati nei suoi confronti? La cosa più grave è che vi ha detto, io non ho detto che non votavo la sfiducia. Vabbè, adesso questo ancora... poi facciamo chiarezza su questo, però Donati cosa ha detto? Ha detto un fatto gravissimo, che aveva già concordato con il PD e con Repubblica di buttare fango su di me e di creare una campagna denigratoria che nemmeno la mia famiglia mi avrebbe più riconosciuto. Beh, insomma, questo, Parenzo, questo mi sembra un po' esagerato. Senta, ma perché dovrebbe avercela così? Esagerato, dico, questo è un giudizio suo e mio, ma lui l'ha detto. No, sì, l'ha detto. Senta, ma in questa conferenza stampa che avete fatto questa mattina insieme al signor Cesario, insieme al signor Calearo, sì, grazie. Lei, ho visto che con faccia un po' sorridente, aveva in mano un cartello con il simbolo di questo nuovo movimento che avete creato, no? Parentesi, forse sono un po' troppi questi movimenti, però insomma, questa è una mia considerazione. Ma non è un movimento per dire che è un gruppo che si vede in una responsabilità nazionale. Ho capito, ma avete presentato un simbolo, che è un simbolo di un nuovo partito, per individuarci e per far sì che diventiamo riconoscibili ancora più forti attraverso un simbolo che c'è scritto responsabilità nazionale. E come è fatto questo simbolo? Perché c'è il simbolo là, c'è un simbolo tondo con anche due... il simbolo. Sì, il simbolo, pure il simbolo, Parenzo. Così un ago ci sarà. No, un ago no. Io non so chi che parla perché sento il sottofondo. Signor Parenzo. Se ci fosse Parenzo, onorevole. Se ci fosse stato un ago, poteva essere anche stimolo per far capire che anche il settore dell'acupuntura e la partita della medicina non convenzionale e potrebbe essere utile al sistema sanitario nazionale e conseguentemente questione centrale, ma da qui a sostenere Berlusconi per un ago, questo diventa un po'. Aspettiamo. Parlate due, non vi capisco. No, aspetta. Scusi. Parenzo, scusa un attimo. Allora, la questione è questa. Quello che non si capisce bene è questa storia dell'acupuntura, che è una cosa molto seria, naturalmente, la medicina alternativa e tutto. Lei innanzitutto è medico osteopata? No, io sono io. Questo l'ha detto cosa? L'ha detto Di Pietro? Scusi, io dico, vuole sapere. No, omeopata, ha detto Di Pietro. Valente, no, medico omeopata sul Corriere della Sera. Io sono un medico chirurgo specialista in ginecologia e in oncologia clinica e sono specialista in medicina non convenzionale, in modo particolare dell'acupuntura. Perfetto, abbiamo chiarito tutto. Mi pare però difficile che uno possa rompere con un partito per questioni di questo tipo, cioè nel senso che sono questioni molto serie, eccetera, però non è che uno entra nell'Italia dei Valori e dice perché voglio battermi per la medicina alternativa, insomma, o no? Giusto, lei fa una riflessione, ma io ci sono all'interno dell'Italia dei Valori da 12 anni, appunto, ho fatto tante battaglie, porto avanti delle battaglie, non ho rotto con l'Italia dei Valori per questo motivo, o soltanto per questo motivo, non ho rotto per questo motivo, ma ho rotto per tanti altri motivi. Per esempio? Per esempio il modo di gestire il partito. Per esempio che tutti le mie battaglie che da 10 anni porto avanti e credevo in un progetto politico, ho visto che invece all'interno di quel partito i miei progetti politici non avrebbero avuto futuro. Per esempio su che temi? Sempre l'acupuntura, eccetera. Ora vengo, l'acupuntura, l'usura bancaria, la farmaceutica, le parafarmacie, eccetera, eccetera, eccetera. Però ritorno un attimo indietro. Quello che mi ha portato veramente a far riflettere e allontanarmi dal partito per andare al gruppo misto è stato l'atteggiamento del mio capogruppo. Perché sentire dire dal mio capogruppo telefonicamente che aveva concordato, non che doveva concordare, aveva concordato già, mi dispiace, che capisco che quello che sto per dire diventa quasi surreale, ma aveva già concordato con Repubblica, la cosa mi stranezza, ma penso che non corrisponda alla verità, è soltanto un fatto di fantasia, almeno concordato spero, con Repubblica? Con Repubblica e con il PD, cioè di farmi una campagna denigratoria che nemmeno i miei figli mi avrebbero più riconosciuto. Questo significa. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, diciamo. Questo significa che io non ho capito niente e che da 12 anni militavo all'interno di un partito che aveva come obiettivi non sicuramente l'interesse della collettività del paese. Senta un attimo, Scilipoti, però qui c'è una questione fondamentale. Cioè, chi è eletto nell'Italia dei Valori, no, Parenzo? Io credo che come obiettivo principale c'è quello di. Oltre all'acupuntura, naturalmente. anzi pare che l'agopuntura invece non venga considerata dall'Italia dei Valori, e questo potrebbe essere anche una cosa, potrebbe sollevare un problema politico anche questo, chiaro, però non viene eletto dall'Italia dei Valori. Questo lo faccia lei, lo sollevi lei il problema politico, io sollevo problemi politici leggermente più interessanti, basterebbe guardare. Scusi, sull'agopuntura ha insistito lei in moltissime interviste che ha fatto, signor. Detto così credo che sia detto in modo non corretto, detto invece con altri termini, con altri toni, potrebbe acquistare veramente una grande valenza. In che toni, mi scusi, bisogna dirlo. Ma cioè, io non devo dare lezioni di come deve parlare lei. Mi capirà che in questa situazione una persona, un politico che pone la questione dell'agopuntura, del modo in cui la medicina alternativa eccetera viene considerata all'interno di un partito, può sembrare un po' surreale. Questo me lo deve concedere, onorevole Scilipoti, non è che ma questo è uno degli elementi insieme a tante altre. Guardi, ho sollevato anche un altro problema che è molto importante. Intanto, quando parlo di agopuntura non parliamo solo di agopuntura, parliamo di medicina non convenzionale, perché la apriamo a 360 gradi. Abbiamo fatto una proposta anche di inserirla all'interno del sistema sanitario nazionale. Quando poniamo il problema dell'agopuntura e medicina non convenzionale, lo poniamo perché abbiamo a cuore i cittadini italiani, perché in questo momento, siccome non c'è una legge, chiunque può fare agopuntura, e lei stesso potrebbe incappare in mano non competente e conseguenzialmente danni che ne potrebbero Scilipoti, siamo tutti d'accordo sul fatto che è un tema importante, poi ognuno può avere le sue idee eccetera, ma continua a ripetere, se lei io sto facendo una battaglia sulle questioni che riguardano le banche, abbiamo denunciato le banche perché hanno avuto un comportamento grande scorrettezza, lei su questi temi qua non viene filato da Di Pietro, qual è il punto? Vengo filato da Di Pietro, non so che cosa intende lei per filato, sicuramente non è stato attenzionato come doveva essere io parlo con un po' più dalla parte del popolo, capito? Senta, no, lei parla invece dalla parte degli intellettuali, dalla parte del popolo parlo io. No, guardi, io con gli intellettuali non parlo, però, mi permetta, senatore, onorevole professore, no, perché è medico. No, professore non lo so, adesso io non ho visto in queste settimane delle manifestazioni di piazza per la questione delle parafarmacie, né manifestazioni di piazza che dovrebbero esserci sulla questione dell'agopuntura. Vedo manifestazioni di piazza per dire buttiamo giù Berlusconi, che è la cosa su cui sta puntando molto l'Italia dei Valori. Quindi la stranezza del suo comportamento, fermo restando la buona fede nella giusta battaglia per l'omeopatia e per l'agopuntura, che è una battaglia di civiltà, anzi andrebbe proprio portata a livello mondiale, battaglia, rimane il momento che se tra 5 giorni si decide la sorte del governo, e lei, caro dottore, che ci dice no, io non voterò la sfiducia a Berlusconi, capisce che attira l'attenzione di tutti. Guardi, noi mi dispiace poveri, perché lei sta dicendo delle cose che non corrispondono alla realtà. Cioè lei, innanzitutto, chiariamo una cosa. Come si comporterà martedì prossimo? Scusi, posso parlare? Posso rispondere a quello che ha detto il suo collega? Sì, prego. Allora, intanto io non ho mai detto sino ad ora che votavo la fiducia a Berlusconi. Sì. Non ho fatto una battaglia o rotto con il mio partito solo per questi elementi, ma le ho detto precedentemente anche per il modo di gestire all'interno del partito e per tantissime altre questioni. Poi io ritengo che la dialettica all'interno di un partito è importante e fondamentale, ma c'è un problema che è molto importante, e mi dispiace che lei pone soltanto la domanda per dire voteremo a Berlusconi o non voteremo a Berlusconi. Io faccio il parlamentare, sono stato eletto dal popolo, il popolo che cosa mi ha dato? Mi ha dato un mandato. Posso concludere? Sì, prego. Dico, allora che cosa dovrei fare? Dovrei cercare di pensare quale potrebbe essere l'alternativa più plausibile nell'interesse della collettività. La mia domanda che mi sono posta, l'ho posto anche all'interno del partito, cioè non è che quello di dire non voto Berlusconi, io fin quando sono stato all'interno del partito e anche stamattina ho fatto una dichiarazione, per me c'è un travaglio interno e io vorrei, sino allo stato attuale, in questo momento io voterò contro il allo contro stato attuale Berlusconi, sì. Allora continuo per dire, cosa potrebbe cambiare un problema che è questo, che problema allora, si pone? È un problema di fiducia a Berlusconi, cioè dopo il 14 che cosa succederà in Italia? Sì, quello ce lo domandiamo tutti, onorevole Scilipoti. Ci sarà una maggioranza di un elemento in più. Allora questo sarà sufficiente a garantire la stabilità. Ma no, questo qua è una domanda che ci poniamo tutti, però e le sto rispondendo. No, però scusi, fare la riflessione. No, però onorevole Scipoti, io vorrei sì, però domanda, io vorrei chiarirle una cosa, forse non è chiaro, ma lei sicuramente lo sa meglio di me. Quando uno aderisce all'Italia dei Valori, io credo che lei lo abbia capito, anche perché da 12 anni allora, quando uno aderisce all'Italia dei Valori o ad altri partiti deve abbassare completamente, dico quello che ha in testa, e anche la possibilità di poter ragionare nell'interesse. Ma scusi, ma lei lo ascolta di Pietro quando parla di Berlusconi o no? Lei lo ascolta di Pietro quando parla di Berlusconi? Sì, ho capito, cioè siamo nel campo di un. Ma perché mi fa questa riflessione? No, ma la riflessione è questa: Di Pietro vuole abbattere Berlusconi perché pensa che sia tutto il male possibile. Chi aderisce all'Italia dei Valori? Ma perché mi fa questa riflessione? Mi fa la riflessione come se io già avessi deciso di votare per Berlusconi. Io sto facendo un'altra riflessione, mi sto ponendo una domanda. Sì. Dopo il giorno 14 si rischia in Italia di avere la guerra civile. Io oggi ho fatto una conferenza. Speriamo di no. Ma scusi, lei come la chiama? Cioè dire che i parlamentari in questo momento sono screditati al 100%. Si permettono sui siti internet di dire che i parlamentari debbono essere fucilati alle spalle. C'è un clima di odio che non finisce mai. C'è un momento di grande confusione. Come la chiama? Mi posso permettere che anche i deputati ci mettono del loro. Sicuramente, ma dico, basterebbe che lei cliccasse sulla Camera dei Deputati e veda chi è l'onorevole io non la voglio aggredire. Ha lavorato nell'interesse del paese. Ma adesso questo qua, sai, è una cosa un po' nell'interesse del paese. Io spero che lei abbia lavorato nell'interesse del paese, anzi sono sicuro. Però le voglio dire una cosa: fare una conferenza stampa in cui ci sono insieme tre persone, le quali affermano: io voterò, una persona voterà la sfiducia, un altro si astiene e l'altro vota la... Dottore, scusi, lei è una persona intelligentissima. Trattasi di cosa surreale. No, non è vero. Non è vero. Le persone che erano là dentro hanno detto quello che loro sentivano in quel preciso momento. Ma ho capito. Le persone che erano là dentro hanno detto: noi in questo momento abbiamo questa posizione, sicuramente troveremo attraverso un dibattito, attraverso un dialogo, attraverso il vagliare il tutto quello che sta succedendo sul territorio nazionale, quello che potrebbe succedere, che la nostra linea sarà una linea unica. Hanno manifestato un travaglio interno per dire: noi abbiamo una grande difficoltà perché l'interesse del paese al di sopra dell'interesse un travaglio interiore. È un altro discorso. Se a lei interessa soltanto che cosa, mi dica quello che interessa, sono in grado di rispondere, gli rispondo. Quante persone in una volta non riesca a sentirle. Scipoti, quante persone ha curato con l'acupuntura nell'Italia dei Valori? Questo mi interessa. Ma l'interno dell'Italia dei Valori non lo sono, però scherziamo un po', su, almeno rendiamo la cosa più leggera. Pare che il tesoriere, la signora Silvana Mura, si sia curata grazie alle sue arti. Fatto questo e ho curato pure qualcun altro. Mi dica, sono abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ah, addirittura, ottimi risultati. Lo stesso Di Pietro si è rivolto a lei? Per qualche consiglio, qualche volta. Qualche volta, ma cose così. Ma lo ha agopuntuto? No, non è il termine giusto, però in ogni caso no. In ogni caso no. Invece la signora Mura si è sottoposta a una seduta di agopuntura. Più di una, diciamo. Vabbè, ma sono cose che riguardano il medico e il paziente. Non lo so, guardi. Cioè, i consigli me li ha chiesti, i consigli glieli ho dati. Beh, certo, deve essere stato poi traumatica la rottura, no? Dopo questa. Si era creato anche. Guardi, tutte le rotture sono traumatiche, specialmente per coloro i quali hanno un minimo di sensibilità all'interno della propria anima e del proprio cervello. Per me è traumatica e la sto vivendo molto male. La vivo molto male perché. In un partito che ho militato da 12 anni, soltanto per aver fatto delle riflessioni, sono stato buttato sui giornali. Ma su Berlusconi non si può riflettere nell'Italia dei Valori. Su Berlusconi. Un delinquente, un malfattore, uno che. Si sono dette tante di quelle cose che non corrispondono alla realtà. E mi sarei aspettato invece dei partiti responsabili un comportamento leggermente diverso. Ma su questo, guardi, superiamolo questo momento. Parliamo di altre cose. Superiamo. Mi faccio la domanda dal punto di vista politico, spero di potervi rispondere in modo adeguato e sufficiente per soddisfarla. No, ma per carità, mica deve soddisfare me, dobbiamo intrattenerci in una conversazione simpatica sulla situazione politica italiana, alla luce soprattutto di questo passo epocale che è stato fatto oggi. Quasi io mi sono posto un problema, il problema per me è grave, è una riflessione che ha fatto un certo Saragat nel 1936. Scusi, però con Saragat, un attimo solo, Scilipoti, con Saragat ci fermiamo un attimo, perché mi sembra che scomodare Saragat scomodare Saragat, era stato il Presidente della Repubblica, no, appunto, di un partito politico, appunto. Nel 1947 ha fatto una scissione che non è stata capita da nessuno. Scilipoti, si fermi un attimo, perché la scissione del 47 di Saragat fu cosa assai seria rispetto alla conferenza stampa che avete fatto oggi. Se lei non mi fa finire di parlare, lo so, però abbiamo la pubblicità, torno subito, mi scusi. Ma se lei non mi fa finire di parlare, ho capito, ma lei non mi può parlare di Saragat. Non si riesce a capire quello che voglio dire. Ho capito, Saragat, la scissione di Saragat. Ma glielo spiego io chi è Saragat. Ma lo so chi è Saragat, lo so benissimo. No, per carità, lo so benissimo. Pubblicità, torno subito, non se ne vada. Eccoci qui, beh, collegamento dall'alta velocità Roma, dal bagno, per la verità, Bologna, dal bagno dell'alta velocità, Domenico Scilipoti, ex IDV, adesso gruppo misto, in collegamento dal suo studio alla Camera dei Deputati. Signor Scilipoti, si vuole paragonare a Saragat, no? No, guardi, se lei mi desse la possibilità di poter spiegare quello che voglio dire, può anche darsi che capisce meglio sia lei che anche chi ci sta ascoltando. Sì. Io sto facendo una riflessione, dico, nel 47 è successa una scissione, sì, e Saragat in quell'occasione pronunciò delle parole. Io non mi volevo paragonare a Saragat. No, che parole pronunciò? Ma dico, la riflessione è questa, se ha la bontà di ascoltare. Per carità, la riflessione basta che non sia troppo lunga. Quando lei finisce poi parlo. No, dico, basta che non sia troppo lunga la riflessione. No, lunga no, però se lei vuole le battute senza far capire niente, le possiamo anche fare. Dico io, la riflessione è questa, che da Saragat che cosa affermare? Che quando gli interessi del partito contrastano con gli interessi del popolo e degli italiani, è meglio abbandonare il partito e schierarsi dalla parte del popolo. Vabbè, dunque lei si è paragonato a Saragat. Capisco che per lei e per qualcun altro ormai non hanno senso più queste parole. Ancora c'è qualche politico che dà valore a quello che ha detto Saragat e vorrebbe applicarlo qualche volta in questa realtà in cui viviamo oggi. E dunque lei ha fatto come Saragat? Ma perché lo scopre ora? Ho fatto come Saragat. Saragat ha fatto delle altre scelte. No. Ha fatto una affermazione, questa affermazione io l'ho condivisa e in questo momento particolare sono stato costretto per una serie di motivazioni a prendere le distanze del mio partito e andare al gruppo misto. Poi se lei la vuole capire la capisce, se lei la vuole sicuramente sarebbe più prenderla in seria considerazione e far sì che molti parlamentari attuassero quello che io sto per dire. Però, e quello che ho detto a lei, Scilipoti, io non sto ridicolizzando niente, io lo sa che cos'è che non posso, cioè lei in tutte le interviste che ha fatto in questi giorni mi ha insistito per in maniera su questa questione fondamentale dell'agopuntura. Adesso questa cosa qui non è vero, io non ho insistito, ma come no, ma le voglio, no, ma non è vero completamente, sul Corriere c'è tutto, mi dispiace contraddirlo perché io non sono abituato a litigare. Allora benissimo, lasciamo perdere questa roba qua, mi faccia le domande. È vero come leggo che lei ha dei debiti ed è per questo anche che lascia l'Italia dei Valori? No, mi smentisca questa cosa perché è una cosa importante. Allora, questa, io intanto su cui non, non si ho scherza dei debiti, perché basterebbe telefonare per capire il tipo di contenzioso che ho, e poi è un contenzioso dal punto di vista civilistico, e chi fa questo tipo di insinuazione, io non voglio usare nessun tipo di aggettivo, ma se di un parlamentare si parla per denigrarlo di una questione che non ha niente a che vedere con la faccenda della politica, che è una questione civilistica, cioè la gente che ci ascolta sa di che cosa stiamo parlando e qual no, è la sa, natura, che è la natura di questo tipo di discorso e di riflessione. La riflessione questa è tanto banale che anche i bambini riescono a capire che è soltanto delegittimare un parlamentare che ha preso una posizione diversa, e la posizione che l'ha presa sicuramente non l'avrà presa perché non mi mancano qualche lira per poter fare fronte, se ci dovessero essere dei debiti, ad affrontarli. Solo che c'è un contenzioso e io ritengo che quel contenzioso non vada pagato, perché c'è un signore che è un millantatore di credito. Sì. Cioè, cosa significa? Significa vabbè, che c'è un contenzioso, paese, c'è un contenzioso. No, scusi, concludo c'è la un contenzioso. In un paese di 1500 abitanti ha 50 cause con 50 persone con la stessa motivazione. Dovremmo chiedere ai magistrati perché non facciano la riflessione e non capiscono effettivamente che se si crea una condizione o un contenzioso con un cittadino va bene, ma se si creano 50 contenziosi dello stesso tipo con 50 persone in un paese di 1500 abitanti vuol dire che ci sono delle cose che non vanno. Ma sono altre questioni. Sono altre questioni, non hanno nulla a che fare con la politica, lei dice. Nulla non a che fare. Nulla a che fare, queste nulla sono che fare. Delle meschinità. Ma chi è che la vuole denigrare? Chi è che ha messo in giro queste voci? Ma gliel'ho detto, io spero che non sia così, ma quello che ha detto Massimo Donati, lei dice Donati ha dato l'informazione a Repubblica. Quello che ha detto Massimo Donati, il mio capogruppo, telefonicamente, dice che c'è un, ha detto che hanno già concordato con il PD e con Repubblica per fare una campagna denigratoria e conseguenzialmente a questa campagna denigratoria nemmeno i miei figli mi riconosceranno più. Tanto è vero che si comincia a vedere che si fanno delle insinuazioni su fatti che non c'entrano niente. Ok, Donati ha messo in giro queste voci. Vuole dire che Donati ha messo in giro queste voci? Non ho detto questo. Vabbè, sì, adesso non ci vuole. Scusi, ho detto che c'è un cartello, mi è stato riferito da Donati, che lui ha concordato con il PD e con Repubblica. Benissimo. Lui me l'ha riferito telefonicamente. Va bene. Senta, Scilipoti, no, ho capito benissimo, ma Berlusconi pochi istanti fa in collegamento con una riunione dove c'era anche il signor Brancher, si ricorda che doveva diventare ministro, ha detto che di essere sicuro di ottenere la maggioranza sia alla Camera che al Senato e dai responsabili fare la crisi. Anche secondo lei aprire una crisi adesso è dai responsabili? Ma io credo che chi ha avuto il mandato per governare dovrebbe dire apertamente se è in condizione di governare o no. Nel caso in cui non ci dovessero essere le condizioni, la parte della maggioranza che ritiene che non ci sono le condizioni deve mandare il paese alle elezioni. Ho capito, però la crisi è dai responsabili, questa è la domanda. Io ritengo che in questo momento spendere 800 milioni di euro possa essere un problema serio per il paese. Avere un governo, non avere una continuità in un momento politico potrebbe essere a rischio. Però l'altro problema e dunque lei si astiene, se non ci dovesse essere un governo serio e forte, come potremmo andare avanti? Cioè dire che cosa succederà dopo il 14? Benissimo, il governo serio concludo, però non è una conferenza stampa. Ci dovrebbe essere, ma non è una conferenza stampa, mi faccia concludere. Facciamo un botta e risposta. Risponde alla domanda per sapere. Scilipoti, il governo serio e forte, ma vuole sapere se voto Berlusconi o no? Mi dica. Allora, prima di dirle se voto o non voto Berlusconi, le dico ci vorrebbe molta più responsabilità dei parlamentari, fare un passo indietro, e quelli che sono da 40 anni all'interno del Parlamento dovrebbero essere molto più seri di me che sono da 2 anni e assumersi la responsabilità di fronte al popolo e creare le condizioni per creare un paese serio e stabile in un momento di difficoltà. Però Scilipoti, alla fine la domanda se io voto allo stato attuale, io non voto il governo Berlusconi. Ho capito, ma lei dice che ci vuole un governo serio e forte. Il governo Berlusconi è un governo serio e forte, per esempio? Non ho detto questo. Ma no, la domanda, glielo domando. Ho detto chi è stato eletto dagli elettori per fare la maggioranza, faccia la maggioranza. Ho capito. Chi è stato eletto per fare opposizione deve fare opposizione. Vabbè, ma tanto gli inciuci già in Sicilia hanno fatto grande confusione. Ho e capito. I siciliani non capiscono più benissimo, qual è la maggioranza che hanno eletto e qual è la minoranza che hanno eletto. Scilipoti, lei però mi ha detto nello stesso tempo che spendere i soldi per le elezioni è un errore, 800 milioni per fare le elezioni, e come lei sa il leader del suo ex partito a posto di spenderli i soldi, ne prendono una parte e glieli diano a coloro i quali sono stati vittime dell'usura bancaria. Questa è una proposta concreta. Vabbè, Scilipoti, adesso sto lanciando tramite la sua zanzara. Vabbè, Scilipoti, non mi vuole dire nemmeno se ci potrebbe essere un passaggio all'astensione. Un passaggio all'astensione. Vabbè, adesso non mi prenda in giro. Non mi prenda in giro. Non mi aspetterei mai. Non mi prenda in giro. La seguo pure come trasmissione. Come non mi prenda in giro, però. Ma perché dovrei prendere in giro? Senta, Scilipoti. Scusi un attimo. Parenzo ha bisogno. Parenzo ha fatto venire mal di testa a Scilipoti. Non ho capito niente. Ha bisogno di. Non ho capito niente. Gli daremo la schedina perché lui non potrà utilizzare l'acupuntura. Perché capisco che non è vicino a questo mondo. Allora gli daremo una spina. Non sono vicino. Gli daremo dell'acetil salicilico per fargli passare. Ecco là. Scusi un attimo. Io adesso, per esempio, dopo una corsa molto faticosa, Scilipoti, lei che è tecnico di queste cose, io sa che corro. Non mi offende. Tecnico specialista. Io dopo è una cosa ben esatto, dopo una corsa molto faticosa. Dipende che tipo di corsa. Una corsa, una decina di chilometri di corsa. Ah, benissimo. Per esempio, allora, 10, 12. Sì, sono un mezzo atleta, insomma, adesso non esageriamo. Mezzo perché? Cosa mi consiglia? Ma perché mezzo? Mezzo, sono atleta. Con una gamba? Ah, no, atleta in senso non sono professionista in questo senso. Camminassi solo con una gamba, siccome dice mezzo. Vede che lei quando parla non di politica, è molto più simpatico Scilipoti, è molto meno impettito, molto meno impettito. Le chiedo scusa, ma non sono impettito, per carità, non mi fraintendo. Poi parla come un vecchio democristiano degli anni 60. Veramente? E quando parla di politica, invece ci sono le condizioni Tutte cose un po' valuteremo se ci sono le condizioni. Ma no, guardi, io parlo un linguaggio come lei dice al popolo, cioè io devo vedere gli interessi in questo momento quali potrebbero essere. Ma il popolo dell'Italia dei Valori vuole il popolo dell'Italia dei Valori con cui, nella quale formazione lei milita vuole la testa di Berlusconi, Scilipoti, la testa, la testa di Berlusconi. Attenzione, notizia fondamentale, Scilipoti, fermi tutti. Grassano. Ah. Grassano, Scilipoti, lo conosce lei Grassano, sì? L'ho visto qualche volta in aula. Voterò la fiducia a Berlusconi. Auguri per lui. Siamo. Allora, e salva l'Italia. Salva l'Italia, vero? Salva l'Italia. No, ho fatto una battuta. Il 14 dicembre voterò per il governo Berlusconi. Lo ha detto conversando con i giornalisti a Montecitorio Maurizio Grassano, deputato liberal democratico iscritto al gruppo misto. Però bisogna dire che questa cosa qui non è una cosa clamorosa, perché in realtà Grassano viene dalla Lega, perché è subentrato a Cota, credo, no? Per cui siamo nel campo della normalità. È lui che ha creato questa pantomima, Grassano. Cioè, vabbè, pubblicità. Scilipoti, lei è molto simpatico, resti con me, a meno che non abbia urgenze di agopuntura, no, o cose. Mi fa piacere restare con lei. Benissimo. Allora, pubblicità. Parenzo, siamo qui, caro Parenzo. Dov'è il professor dottore? C'è sempre? Sì, dottor Scilipoti. Grazie per il professore, sono sempre dottore. Questo. Dottore. Ma può togliere anche il dottore, il mio nome di battesimo è Domenico. Mimmo, anzi. Oggi vi chiamavate così, Mimmo. Perché noi siciliani utilizziamo molto questo Mimmo, non utilizziamo Domenico. Senta, chi è il più restio a ricevere queste cure di acupuntura in Parlamento? Lei ci ha provato un po' con un po' di persone a convincerle, no? Io non ci ho provato con nessuno. No, a convincerle di che cosa? Forse a votare o a mettere all'ordine del giorno delle commissioni affari sociali la proposta di legge. Vabbè, però anche di avvicinarsi alla di regolamentare l'acupuntura. Non ci sono riuscito, mi dispiace, pazienza, vuol dire che tenterò prossimamente. Questo sì, ho tentato di avvicinare qualche parlamentare per dire dammi la mano d'aiuto per vedere di oltre che calendarizzare a farla poi fai nominare un relatore per vedere se c'è la possibilità di discutere. Un attimo, sì, ho un attimo di sbandamento proprio. C'è mal di testa, che deve prendere? Allora qui c'è necessità. Scilipoti, qui deve fare l'acupuntura, vuol dire che soffre di atrofia cervicale, mi dispiace, deve fare l'acupuntura. Guardi che là ci sarà sicuramente qualcuno che lei potrà utilizzare. Chi c'è a Bologna? Sta andando a Bologna, Parenzo, chi c'è a Bologna? A Bologna ce n'è uno bravissimo che è il professore Giovanardi. Che non è parente di Giovanni. No, perché lui ha un fratello gemello, il ministro. Non è parente, no. Non è parente, per carità. È una persona molto seria, molto in gamba. Capito? Professor Giovanardi, che cos'è? Un acupunturista anche lui? È un medico che si occupa di acupuntura, oltre ad essere presidente della FISA, cioè che sono delle associazioni di medicina. No, ma aveva venuto mal di testa a sentire la cosa. Ma questo non è importante. No, come non è importante? Sappi che c'è un buon medico che si chiama Giovanardi, benissimo. Invece faccia fare gli aghi per evitare che possa avere questi sbandamenti così improvvisi. Sicuramente sarà la flessione cervicale, a meno che non sia qualche altra cosa che non riesca a capire. Certo, la lontananza e la distanza senza vedere è difficile. Ma no, fare le cose che ho sentito che mi fanno ci sono molti testa. Politici che fanno diagnosi a distanza e riescono a capire quello che prova il politico, no? Nel momento no, io sono allergico alle sciocchezze, diciamo. Cioè, non ho capito, scusi. No, sono allergico, cioè mi viene proprio mal di testa. Quando sento delle motivazioni assurde, mi viene proprio mal di testa pazzesco. Ce l'ha con lei, Scilipoti. Ce l'ha con lei. Ma vedi, visto che lei dice che ci sono delle assurde, è più forte di me. Se mi parla addosso, come fa a ascoltare? Dico, quando lei dice che ci sono delle sciocchezze, le sciocchezze le sta dicendo lei. Perché io guardo le sciocchezze, ma ti viene mal di testa a pensare che. Ma guarda, il mal di testa gli viene perché molto probabilmente all'interno della scatola cranica ci sarà qualche difficoltà di connessione. Che meraviglia, riesco a tirare fuori il meglio dalle persone io. Perfettamente, vede? Lei cerca di tirare il meglio perché effettivamente anche mia moglie, il meglio non ce l'ha da dare. La mia scatola. Senta, quando le chiamo, quando perché non parla di politica, dico così, mi faccia le domande che mi deve fare, visto che mi vuole mettere in difficoltà, mi faccia. Ma non la voglio mettere in difficoltà, posso dirle una cosa proprio dal cuore. Lei può dire tutto quello che Scilipoti, in realtà devo dire la verità, in difficoltà si è messo anche un po' da solo lei. Non è che... Io leggerissimamente perché... Beh, un po' da solo si è messo in difficoltà, adesso non esageriamo, insomma. Quindi un po' da solo si è messo in difficoltà con queste incertezze, troppe incertezze, ha capito? Troppo travaglio interiore. In politica il travaglio interiore non è concesso. Uno ho capito. Ha capito? capito? Mi piace per lei. È il travaglio interiore. Quando uno dice ho un travaglio interiore, inevitabilmente passa la parte più ridicola di una persona. Questo un po' è così, Scilipoti. Io a malincuore lo devo dire. Quando... Ma che a malincuore? Io lo dico con cuore gioioso, perché voglio dire, mi viene un mal di testa a sentire tutte a fanno la conferenza stampa in tre. Uno è eletto nell'Italia dei valori e ho dei dubbi, e l'accelerazione interiore e l'agopuntura. Ma perché non mi spiega perché ha posto di essere così ridicolo quando parla? Ma perché non mi spiega perché? No, lo sa perché. Una persona si pone dei problemi e fa delle riflessioni e vuole fare una le viene mal di testa perché non riesce a capire che sta parlando con un parlamentare che effettivamente c'è qualcosa dentro. Lei forse è ancora tenuta ai parlamentari che alzano e abbassano la mano. Ma cosa ha dentro? Scilipoti, cosa è successo dentro? Ma lei mi sta portando su un discorso che non ha nessun senso e nessun significato. Il mio, pensavo di poter fare una discussione sotto il profilo politico. No, ma lo stiamo facendo la discussione, Scilipoti. Ma quale stavo facendo? No, ma la stiamo facendo la discussione politica. Adesso intramezzato un po' da battute, da cose scherzose. Ci sono battute che hanno un senso, ci sono battute che potrebbero avere il doppio senso. Io non credo. Quello sempre, battute hanno sempre un po' di doppio senso. Sennò perché lei è abituata a farlo normalmente queste battute. No, ma non stiamo facendo. Adesso non esageriamo, Scilipoti, però io non ho ancora capito. Non ho ancora capito. Adesso, oggettivamente, parlando di politica, non ho ancora capito. Non ho ancora capito il motivo per cui lei potrebbe anche fino all'ultimo votare la fiducia a Berlusconi. Non l'ho capito. Beh, questa cosa qui per responsabilità nazionale, per responsabilità, perché non vuole la crisi in questo momento. Mi dico, non vuole la crisi, sarebbe grave una crisi nella tormenta economica. Io nella sto dicendo un'altra cosa, mi dispiace che non l'abbia capito, gliela ripeto non l'ho capito, speriamo che lei la capisca. Mi dica. Io in questo momento la mia posizione è contro il governo Berlusconi. Io oggi sono uscito dall'Italia dei Valori, sono andato in un gruppo misto dove ci sono altri due parlamentari. Benissimo. Sicuramente vaglieremo attentamente la situazione e conseguenzialmente decideremo. La decisione nostra sarà sicuramente nell'interesse dei nostri figli e dell'Italia, visto che lei linguaggio non riesce a capirlo. Interesse dei figli, e pensa che sia superato questo linguaggio. Mi dispiace per lei, ma gli altri. Io continuo a pensarla così, la continuerò a pensare e continuerò a portare avanti le mie idee. Ma non è che gli altri sono contro i figli, contro i propri figli. Non gli ho altri detto questo, lo sta dicendo lei. Lei sta dicendo una cosa che io non ho detto. Io non ho detto che sono contro i figli, non ho detto niente. Io ho detto quello che io penso. Gli altri, ognuno è responsabile di quello che dice, d'accordo, di quello che fa. Mi dispiace che lei mi fraintenda o no, mi vuole per fare carità, delle cose no, che non no, mai no. Detto. Che è successo? Che è il treno che parte? Cos'è? Sta partendo il treno, molto probabilmente. Mi allontano da Scilipoti dalla camera. Che per strada. Come, scusi, Scilipoti? Perché ancora andate con il treno diesel, c'è l'elettricità, questa è la difficoltà. Come il treno diesel? L'Eurostar, questo qua, l'alta velocità. L'Eurostar, mi dispiace, vuol dire che avete sbagliato treno, dove doveva andare su. È l'alta velocità. Ma non ho capito. È l'alta velocità per Bologna che sta prendendo Parenza. L'alta velocità esiste come ferrovia dello Stato, dico come qualcuno che ma non esiste in questo momento l'alta velocità nella connessione dei nostri dialoghi e dei nostri discorsi. Non esiste. Vabbè. No, penso di no. No, però io mi dispiace perché io pensavo di fare un ragionamento che poteva essere però Scilipoti chiarire le mie posizioni nei confronti degli italiani, ma mi ha dato la possibilità di poter dire quello che penso. Grazie. Infatti mi sembra che sia stato. Mi sembra non che so lei dovuto... se sono stato molto chiaro o poco chiaro. Ho detto quello che penso e sono riuscito a dire quello che lei mi ha permesso anche di dire. Eh beh, questo è normale che sia così. Però scusi, Scilipoti. Dica, dottore, che l'ascolto, sono tutto orecchie per ascoltare. Vuole parlare di acupuntura? Come no, certo, fra poco. Vuole parlare se come no? Che cosa ma vuole? Di Pietro l'ha mai chiesto l'acupuntura? Ma questo me l'aveva già chiesto, forse lei è lento. No, Di Pietro, se ha chiesto. Che fa, le domande per la seconda volta? Se l'ha chiesta l'acupuntura qualche volta. Mi aveva chiesto per i consigli, ma me l'aveva già chiesto. Mi sono scordato. Forse si è distratto per mi un sono attimo, distratto. Tra il tuo collega. Traffico, torno subito, Scilipoti. David Parenzo con il mal di testa. No, mi è scoppiato proprio, guarda. In collegamento dal treno alta velocità Roma-Milano, dove... Roma-Bologna. Sì, vabbè, andrà a Milano però, poi il treno, immagino. La direzione, vedi, sono completamente confuso. Sei confusissimo. Scilipoti ti ha messo, l'onorevole Scilipoti ti ha messo... Visto che ha un pallone per testa, ti ha messo in... scoppiata. Come, scusi, avendo? Che ha detto che per testa avrà, sicuramente ha un pallone per testa, e il pallone è già scoppiato. Un pallone per testa? Dico, sono delle battute scherzose, come lei fa per come no, certo. Non si offenda, dico, è soltanto delle battute. Visto che la trasmissione si chiama La Zanzara e dobbiamo punzecchiare un pochino, dico... ma magari, le chiedo scusa, quello che vuole l'avvocato. Allora, chiedo scusa, perché non mi non riesco a capire poi. Sì, sì. Le chiedo scusa perché sono delle riflessioni, ma così buone, dico con un grande animo gentile, perché stiamo chiacchierando e sappiamo che la trasmissione proprio si chiama La Zanzara. Esatto. Perché qualche puntura la dà. Eh sì, appunto, diamola qualche puntura di Pietro, per esempio. Ma attenzione al pallone del suo amico, perché a furia delle punture nel pallone basta una puntura per farlo saltare. Boom, vuol dire che La Zanzara girava intorno al pallone della testa del suo amico, questa cosa vera. Para far però non, non vi sovrapponete, se no non capiamo nulla. Sennò... sì, effettivamente, ma no, non è colpa sua, è Parenzo, la colpa è di Parenzo. Ah, okay, in questo... Parenzo, come si chiama? Parenzo? Parenzo, sì, Parenzo, ah, David Parenzo. Si chiama lei? Cilipoti, no? Parenzo. Cilipoti lei si chiama, no? Cilipoti, Domenico Cilipoti. Guardi, mi mando ora un'email, così glielo scrivo, lei se lo mette davanti ogni tanto la sera prima di andare a letto. No, mi aumenta il mal di testa, guardi. Ma no, la sua testa aumenta il dolore perché dentro la testa c'è qualche difficoltà, dovrebbe fare un attacco per verificare che cosa ha all'interno della testa. Senta, ma il suo collega Razzi, che come vota? Razzi, ma sono lì pazzesco, è una situazione addirittura ora siamo arrivati pure a utilizzare dei termini offensivi nel Razzi Amari, ho detto Razzi Amari, ma veramente siamo, però scusi Cilipoti, il suo collega Razzi ci può dire qualcosa in più su come voterà, su come non voterà? Guardi, ci mancava solo che lo chieda a Razzi, come scusi? Lo chieda a lui, non lo so, non sa nulla, non è in contatto, no, eravate nello stesso gruppo Italia dei Valori, niente, eravamo nello stesso gruppo, ma questo non significa niente. No, perché figuriamoci, perché non, lei si dovrebbe porre un'altra domanda, domanda? All'interno dell'Italia dei Valori c'è qualche altra riflessione interna e qualche difficoltà da parte dei colleghi che stanno all'interno, cioè? Se tutti condividono la strategia politica che il partito sta portando, ci sono molti che non la condividono. Questa è una riflessione che gli sto facendo, ma questo è interessante, al suo invece amico, in modo particolare, visto che gli è scoppiato il cervello. Cioè, scusi, ho fatto un errore perché da dentro non c'è niente, dico la testa o il pallone, gli faccio questa riflessione, faccio qualche telefonata per capire meglio, e coloro i quali oggi buttano fango dovrebbero chiedersi come, sì, mai avviene che un parlamentare prenda una posizione e non buttare fango nel dire che l'ha presa per delle motivazioni banali o di interessi personali, l'ha presa perché da qualche anno pone all'attenzione, sì, alcuni problemi e le risposte non sono state, però non si era notato, poi. Cilipoti, non si era notato che lei poneva qualche problema. Basta che lei legga un po' dei miei comunicati, delle mie riflessioni e delle mie dichiarazioni e poi se ne accorge. Siamo stati distratti in questo periodo. No, per carità, non voglio dire che lei è un attento, dico sempre. No, in questo caso può anche essere che gli sia sfuggita qualcosa, che è la cosa ben diversa, non distrazione, gli è sfuggita. No, ci sarà sfuggita sicuramente qualche... Ora basterebbe che lei un attimo. Clicchi sulla Camera dei Deputati, va alla voce dell'onorevole Domenico Cilipoti. Basterebbe Domenico Cilipoti per verificare l'attività del parlamentare e poi si accorge che di fronte a sé ha un parlamentare che non dico che ha fatto il massimo, ma che ha lavorato seriamente nell'interesse del paese. Ma questo lei sta parlando ora, di un'altra cosa. Ora, caro amico, se lei non dà questa valenza e non dice queste cose, no, ma io che ne so se ha lavorato seriamente per il paese. Scusi, non è che devo fare. Se lei tenta soltanto di strumentalizzare, ma io non sto strumentalizzando nulla. Io sto chiedendo una cosa che riguarda l'attualità, cioè il signor Cilipoti è uscito dall'Italia dei Valori, che è un partito anti-berlusconiano che vuole la caduta di Berlusconi, e adesso potrebbe votare la fiducia a Berlusconi. Ma io non do nessun giudizio su questo, si figuri, io sono uno che non sono. Ma me l'aveva fatto questa domanda? Non è una domanda, è una considerazione. Me l'aveva fatto questa considerazione, l'aveva fatta, io ho risposto e credo di aver risposto bene. No, infatti, siamo a posto. Senta, Cilipoti, buona acupuntura, la ringrazio. Lei è stato molto gentile. Guardi, io non esercito più l'attività perché da quando faccio il parlamentare ho abbandonato la professione. Ah, come? Non scusi. Credo che siano molti quelli che abbiano abbandonato la professione per fare l'attività di parlamentare. Scusi un attimo, Cilipoti, ma come ha abbandonato la professione? Dunque, per esempio, l'onorevole Mura a chi si è rivolta? Un'altra persona? Ho capito, perché lei pensava che io avessi uno studio all'interno del Parlamento. No, la testa è scoppiata anche a lei. No, un abbraccione di cuore, grande affettuosità. Ma lei pensa lei male. La ringrazio veramente. Era una curiosità, Cilipoti. Era una curiosità, ma lei ogni tanto. Grazie, veramente. Ma in maniera gratuita. Grazie. Stia attento, però, che i punciglioni molte volte possono essere anche delle nostre. Appunto, un abbraccione di cuore, grazie per la disponibilità sua. Grazie a lei, signor Cilipoti. Grazie, arrivederci. Parenzo? Ci sei ancora? Sei morto? Improvvisamente è sparito il mal di testa. Come mai? Improvvisamente, quando ho sentito tic, chiuso il telefono. Romina da Caserta, buonasera, Romina. Pronto, buonasera. Senta, innanzitutto buonasera a lei e agli ascoltatori. Ma io sto ascoltando questo parlamentare che dell'Italia dei Valori che sta dicendo delle cretinate su delle cretinate. Allora, io rappresento una buona fetta del popolo elettore del Popolo della Libertà. L'ho votato questo governo, me ne sto pendendo amaramente. Perché Ma non ho capito, lei perché ha votato? Non ho capito bene. Il Popolo della Libertà. Poi si è avvicinata all'Italia dei Valori. Da un anno a questa parte. Beh, è un po' confusa lei, Romina. No. Almeno un passaggio al centro ci valeva. Un passaggio al centro sarebbe stato meglio, cioè dal PDL. Forza Italia, ho guardato con interesse, ho sempre votato Forza Italia. Poi ovviamente siamo confluiti nel Popolo della Libertà. E poi, proprio perché vivo in Campania, una situazione disastrosa, sto guardando con interesse l'attività dei Valori. Vabbè. Di Barbato in particolare, di Barbato. Del deputato Barbato. Mitico Barbato, sì. Vabbè. Da Berlusconi a Barbato, va bene, per carità. Il mal di testa c'è un passaggio obbligato, perché comunque qua in Campania viviamo delle situazioni disastrose. Vabbè, allora dunque si è avvicinata all'Italia dei Valori. E oggi che cosa succede? Se ne esce questo parlamentare, se ne esce Scilipoti, che ovviamente fa aprire uno scenario totalmente diverso dalle dinamiche del suo partito. Perché adesso non possiamo più appoggiarci al Popolo della Libertà e poter continuare a dare. Scusi, però Scilipoti è uscito non è uscito Barbato dall'Italia dei Valori. Assolutamente no. Anzi, però ovviamente sta mettendo in evidenza delle dinamiche del suo partito, di comportamenti, di situazioni che si stanno facendo allontanare anche dall'avvicinarci all'Italia dei Valori o a partiti. Vabbè, insomma, lei è delusa per il fatto che alcuni deputati che erano stati eletti con l'Italia dei Valori adesso escono dall'Italia dei Valori. Benissimo, Antonio da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Penso che questo fenomeno qua dell'eccessiva autonomia dei parlamentari sia frutto del modo in cui le opposizioni hanno fatto la mozione per la sfiducia al governo. Scusi, questo che c'entra con la mozione di sfiducia al governo dell'opposizione? Cioè, qui mi sembra che nessuno vuole chiudere la legislatura, questo è il punto, si ha una paura fottuta di chiudere la legislatura, questa infatti, è la realtà. Per mille motivi, per mille motivi. Siccome noi c'è questo guado per cui si va verso il maggioritario, no? Per cui ma chi l'ha detto che si va verso il maggioritario? Se cade la maggioranza, che io sappia, è così, come lo sa pure lei. Ma io veramente non lo so. Le cose stanno così, è un guado che dura un po' di tempo. E questa richiesta di, come si chiama, di sfiducia da parte delle opposizioni o anche da parte di chi fa parte della maggioranza addirittura, è una cosa assurda e contraddittoria. Vabbè, Antonio, non ho capito niente. Abbiamo la borsa, torniamo subito. Che cose meravigliose, caro Parenzo. È un po' di amore, un attimo, vedi. Se ci fosse stato un po' di amore, probabilmente come si chiama, che non mi ricordo, cioè Scilipoti, con un po' di amore, forse sarebbe ancora delle TV. Berlusconi, un battuta fulminante di un ascoltatore, Berlusconi ha promesso agopuntura per tutti, fantastica questa. ce n'era un'altra che adesso mi sfugge, sempre da parte di un ascoltatore, qui... Non riesco più a trovare la fantastica, la favolosa. Dovevamo domandargli di una sua attività da pianista, votava per un collega, poi sono stato trascinato dalla vostra diatriba sul mal di testa, su cosa tu hai nella testa. Spero di rimandarlo perché era meraviglioso. Domani mando tutto. Lei non ha niente, cosa ti ha detto lei? Come Otelma quando diceva sei in nulla. Filippo da Firenze, 800 24 00 24, ascoltatori fino alle 21, restate con noi, ancora c'è molto da farvi ascoltare. Filippo Cruciani? Dica. Salve. No, io volevo fare un intervento, se si può chiamare, ma l'ha bella citato perché volevo parlare del Mago Telma. Che vuole dire sul Mago Telma? No, una cosa banalissima, perché oggi sulla Repubblica giravo le pagine e ho visto un piccolissimo articolo tra Firenze su Mago Telma. Il divino, che non lo chiami Telma, che quando ho letto, ho pensato subito alla Zanzara e al certo, certo. Luciani e al e a Parenzo. Ah, no, piccolo oso sulla sua candidatura alla Spezia, a Genova. Sì, ma è tutto smentito, pare, dal Partito Radicale, ma ce ne occuperemo, Filippo, nei prossimi giorni cercheremo di dirimere questa questione anch'essa epocale come quella di Scilipoti, cioè la elezione o meno del Divino a segretario del Partito Radicale a Genova e dintorni. Bisogna dare spazio a Marco Telma. Al Divino, perché, sempre. Al sempre. Divino, perché sempre. È un fenomeno ironico. Quindi, bene, ci voleva dire, ci voleva dire questo? Sì, hanno pensato questo. Va bene, Doriano da Taranto, buonasera, Doriano. Doriano? Niente, Tatiana da Vicenza, buonasera. Buonasera. Prego, signora Tatiana. Volevo dire, io sono un'elettrice dell'Italia dei Valori. Sì. E mi sento profondamente tradita da questo parlamentare che è stato eletto in un partito che in maniera chiara chiede l'eliminazione politica di Berlusconi. Solo politica, meno male che solo politica, anche se sì, poi... l'ho pensato di... ho detto politica. Ogni tanto... No, sa perché? Perché, insomma, anche il berlusconismo fa parte di un sistema che l'Italia dei Valori ha sempre rifiutato, eppure adesso ci troviamo che cadiamo proprio nel berlusconismo, che per me ha significato che tutto ha un prezzo e tutto si compra, e si comprano anche i parlamentari. Beh, secondo lei Scilipoti è stato comprato? Ma guardi, io ci metto la mano sul fuoco, no? Ha dato delle ragioni così basse, così la guerra civile, ma in che partito è stato finora? Ma che partito è stato? Non ha mai avuto prima paura della guerra civile con tutte le manifestazioni che l'Italia dei Valori ha fatto? Cioè, ma dov'era? Dove ha vissuto? Beh, questo proprio... è interessante. Senti, io Parenzo... proprio non riesco a concepirlo. Beh, insomma, questo ripeto, non... ho sentito poco la signora. No, ma ti riassumo un attimo quello che ha detto Scilipoti: la guerra civile dopo il 14 dicembre, secondo... si rischia la guerra civile. La guerra civile, sì. Sono allarmato. Mi sono ispirato a Saragat, più o meno ha detto così: gli interessi del popolo sono prioritari rispetto agli interessi del partito. Dunque, paragone con Saragat. Campagna denigratoria nei suoi confronti, 800 milioni di euro per le elezioni è un errore, piuttosto si utilizzano per tutti coloro che sono state vittime di usura bancaria, e basta inciuci, basta inciuci. E poi a un certo punto Grassano, che ha votato la fiducia a Berlusconi, questo è il quadro, che voterà la fiducia a Berlusconi. La situazione lucida, questa è la situazione. Ti leggo anche un approfondimento sullo stesso Grassano. Maurizio Grassano voterà no alla sfiducia al governo. Un approfondimento su Grassano, sì, lo dice il deputato conversato con i giornalisti alla Camera. Io voterò per la fiducia al governo, avevo firmato la mozione di sfiducia, perché c'è pure da dire questo, avevo firmato la mozione, cioè Grassano ha firmato la mozione di sfiducia, capito? Ha firmato materialmente, cioè non è che ha dichiarato penso alla sfiducia, no, ha firmato con riserva, però con riserva, attenzione, con riserva, cioè la firma con riserva, e dicendo che ci dovevo pensare. Cioè, allora, se ci doveva pensare, perché ha firmato? No, c'è io qualcosa che... solo perché è tutto finito. Aspetta, io voterò per la fiducia al governo. Avevo firmato la mozione di sfiducia con riserva e dicendo che ci dovevo pensare, solo perché mi era stato detto che era l'unico modo per avere un Berlusconi bis con il premier che avrebbe dovuto dimettersi. Poi ho visto Berlusconi, attenzione, mi ha detto che non aveva alcuna intenzione di farlo e che votando per la fiducia e per questo governo era garantito il federalismo. Tema, dice il deputato eletto con la Lega, che poi con il carroccio ha rotto, per lui prioritario. Un sogno inseguito da 20 anni. No, da sempre. No alla sfiducia, quindi, poi la prospettiva dell'approdo all'alleanza di centro di Francesco Pionati, ma solo quando il gruppo dei Lib Dem alla Camera si sarà ricomposto, ovvero avrà un altro terzo componente per non disciogliersi. Vabbè, insomma, è una cosa incredibile. Antonio da Isernia, buonasera. Antonio? No. Pronto? Buonasera, signor Antonio. Sì, buonasera Cruciani, a lei, a Parenzo e a tutti quelli che ci buonasera, stanno Antonio. Ascoltando. Dica. Sì, guardi signor Cruciani, io vorrei dire, no? Io mi vorrei appellare al capo dello Stato, al presidente Napolitano, che è un signore, sì, e che è il garante della Costituzione italiana, vero? Di fare qualcosa per questi salti in panchi che passano da uno schieramento all'altro, perché non se ne può più. Però perché scusi Antonio, ma Napolitano non può fare nulla, Napolitano. Ma è possibile che qui allora tutti fanno quelli che vogliono, qua il paese sta andando a rotoli giorno per giorno. Antonio, però non è che sta andando a rotoli perché c'è qualche deputato che fa un passaggio da un gruppo all'altro. Non va a rotoli per Grassano, non diamo tutta questa appunto, né per Grassano, Scilipoti, insomma. Né su per via. Sì, ma questo Scilipoti, che si chiama Scilipoti o si chiama di un altro nome, ma è possibile che nessuno può intervenire a fermare questi signori che passano dallo schieramento all'altro? Eh no, perché i deputati possono passare da uno schieramento all'altro, non c'è il vincolo di mandato. È così. Ma non va bene così, perché qua si va di male in peggio, qua si va di male in peggio. No, Antonio, non se la prenda troppo, i problemi sono altri, non sono Grassano e Scilipoti, per fortuna, che passano dai da un gruppo all'altro. Perché Berlusconi sta incollato con la colla di Naville alla sua poltrona. A questo che c'entra. Scusi, se la maggioranza viene meno, deve dare le dimissioni. Questo lo sappiamo tutti, se la maggioranza viene meno deve dare le dimissioni. Infatti Berlusconi invece spera di avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato, è molto semplice. Ma capisci che avere la maggioranza con i voti di Scilipoti e Grassano. No, Scilipoti non è detto, Grassano sì. Ma non lo so, Diego, la verità però Grassano era stato la natura del governo, no, però cambia la maggioranza. Ma che c'entra? Ma Grassano non c'entra niente, Grassano è stato eletto con il simbolo della Lega, poi ha rotto con la Lega, ma comunque non si può dire che era uno che è passato dall'Italia dei Valori. Razzi non si sa perché è introvabile. Chiamatemi Razzi. Antonio, un attimo, si calmi. Non si arrabbi troppo per questi passaggi dei deputati, che sono cose che non contano nulla, sono cose divertenti che ci fanno divertire perché i personaggi sono quelli che sono, ma non è che siano fondamentali. Il numero di Razzi, squilla? Fammi sentire. Sentiamo? Razzi? Niente, attesa per Razzi, niente, non prende. Non prende Razzi. Aspetta. Destinatario. Comporre il numero del destinatario. E come comporre il numero del destinatario? Ma avete fatto il numero sbagliato, vabbè. Anna da Firenze. Anna? È un giornalista molto informato, poi sai, ci amici, specialmente i giornalisti di Anna! Giornale, di Libero. Volevo sapere quando sarà che verrà pubblicata la fotografia dei nuovi traditori. Quali nuovi traditori? Quelli che stanno andando da una parte a un'altra. Ma perché bisogna fare le fotografie distribuite? Se l'ha fatta degli altri dovrebbe farlo anche per quelli, un po' di far condicio, no? Ah, lei dice Libero adesso dovrebbe fare le foto anche di chi passa dall'opposizione alla maggioranza, perché sono traditori, sono traditori pure quelli, no? Vabbè, secondo una certa logica, certamente sì. E poi dovrebbe farla anche, siccome anche loro sono molto retrattivi nelle cose, scrivono cose sì. Di anni fa, anche quelli che tutte le volte c'è stato le elezioni, non so, la Pivetti, Grillo, Dini, Mastella, quello che era stato accusato all'estero. Ecco, tutti questi traditori, siccome si scandalizza tanto quando viene a parlare Belpietro di questi traditori. Tutti. Allora? Ma perché i traditori sono solo quelli di una parte? Vabbè, ma giriamo a Belpietro questa sua considerazione, Anna, grazie. Comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola. Che mal di testa, anche a me è venuto mal di testa. 20 e 45, traffico. Comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, un po' d'amore. Siamo qui, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, ormai in conclusione, mancano una decina di minuti, sempre con Davide Parenzo in collegamento dall'alta velocità, con la linea che va e viene. Però devo farti ascoltare una cosa che mi ha mandato l'amico, molto bravo, con questo suo blog eccezionale, direi piovono rane, no? L'amico Giglioli. Il quale mi ha mandato questo in realtà l'ho preso dal suo sito. Mi ha mandato un'altra cosa che si riferiva a Razzi, che abbiamo già fatto ascoltare. Questa era già nel suo sito. Ed è una conversazione avuta con Pannella, abbastanza surreale, fuori dal luogo dove c'era una specie di riunione del popolo viola nei giorni scorsi. Conversazione sulla decisione che prenderanno i radicali, Giglioli, Pannella, sentite. Quindi a oggi lei non sa dirmi cosa voteranno i sei radicali? No, io so benissimo, nell'alibi che io per votare Berlinguer ho bisogno di votare però contro io, Andreotti. Io le ho fatto una domanda. Coglioni, parli lei con gli altri. Voteranno sulla fiducia o si asterranno? Il diritto... Voteranno la fiducia o si asterranno? È una domanda facile, può rispondere, non è difficile. Per lei certo, è un irresponsabile presuntuoso, quindi cosa vuole? Un giornalista che insulta i giornalisti, bravo. È un giornalista, già perché hai scritto io le ho chiesto, no, perché lavoro in un giornale. Lavoro in un giornale, sì. Lei scusi, non mi ha risposto, i sei cosa faranno? Io ho risposto come credo di potere e dovere rispondere. Quindi non mi ha risposto. Quindi lei registra la mia risposta, non mente come il giornalismo italiano che dice non ha risposto. Sto parlando d'altro. Se uno non dà la risposta che lei dà. Se lei sapere come voteranno i sei... Lo decideremo sempre, come sempre a bocce ferme. Quando ferme. Lo dici? Cosa vuol dire a bocce ferme? A bocce ferme significa nel momento in cui si vota. Nel momento in cui... Oh, finalmente. E siamo persone serie. Quindi il 14, dici, il 13? No, noi il 14, 1, il... sono 6 ore di differenza. Vota, sì. Quindi è subito prima. Grazie, è stato molto gentile. Non subito prima. Durante addirittura, perché durante. Sono 6. C'è quello alfabetico. A seconda di quello che succede al Senato voterete alla Camera? Certo. Lo sto chiedendo. Aria. Se ogni volta non mi ha risposto. Non mi ha risposto. Beh, eccezionale direi, caro Parenzo. Pannella dei vecchi tempi. Pannella no, versus. Non le rispondo. L'aborto, l'aborto. Non le rispondo perché voi poi non. Volete che rispondo come dite voi? Da giorni, da ogni parte. Senti, Pannella su Facebook, lo sai fare, Pannella, no? Da giorni, da ogni parte. Da giorni, da ogni parte. Sì, sì. Radicali, liberali, liberisti, libertari. Da senti, ogni senti, parte, senti. Il dramma dei Falun Gong. Aspetta, aspetta, no, non lo sai fare. Da giorni, da ogni parte si esige di sapere se il 14 dicembre daremo fiducia o sfiducia. Vogliamo deciderlo con il massimo di dibattito, di riflessione, di partecipazione pubblica, fino all'ultimo momento utile, senza dare assolutamente nulla per scontato. Ora, la cosa straordinaria di questa storia è che è tutta una cosa per creare attenzione intorno ai radicali. È una straordinaria operazione mediatica, anche in questo caso. Io lo preferivo di più quando si vestiva da Babbo Natale. Beh, insomma, in questo periodo, con questa coda di cavallo che ha, non è che... andava in giro con i cartelli. Non si allontana molto, non si allontana molto da quella... E quando si è spogliato nudo in teatro, ha fatto spogliare nudo in teatro. Fu un momento mitico. Giancarlo da Bologna, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, guardi, lei lo sapeva che in Italia Bocchino comanda tutti? Bocchino comanda tutti? No, ma adesso non esageriamo, insomma. Come non esageriamo? È diventato importante da un po' di tempo a questa parte, ma insomma non ma è io, che... Ma io prima non lo conoscevo neanche, tu di una volta è venuto a fare questo qua? Lo so, Giancarlo, la politica è fatta così. Ascolti un'altra cosa. Sì. Di Pietro è stato intervistato sul TG3. Sì. La vado a prendere qui, la risposta che ha dato, che è magnifica. Su che cosa? L'abbiamo già presa, mi sa. Su Gesù Cristo? Sì, che no. L'abbiamo già mandato. No. Che no, cosa? No, stasera l'ha parlato. Sì, stasera, Giancarlo. Che ha parlato di quelli che se ne sono andati dal suo partito. Questo sto dicendo. Sì, parlava di Gesù Cristo. Sì, dicendo che Giuda, Gesù Cristo, io ho avuto, lo so. No, lo so. No, che li ha perdonati come... Sì, certo. Poi volevo sapere una cosa. Sì, prego. Allora, presente Veltroni con Ruttelli che si sono messi assieme? Non ho capito, Giancarlo. Quando Veltroni si è messo assieme a Ruttelli, che l'hanno portato in dietro. Veltroni con Ruttelli, sì. Se per caso avessero vinto le elezioni, 2 anni fa. Sì. Cosa sarebbe successo con l'uscita di Ruttelli dal partito? Ma che ne so, Giancarlo, non mi sembra un problema di strettissima attualità. La ringrazio. Danilo da Bologna, buonasera, sempre da Bologna, dove è diretto Parenzo. Danilo. Benissimo, allora lo aspetto, buonasera. Sì, non aspetti alla stazione per dargli una bastonata in testa, però. Perché... No, sono molto vicino, io ho chiamato perché volevo dare un po' addosso alla trasmissione pure. Sua. No, stasera abbiamo mal di testa, Danilo. Ho capito. Scilipoti ci ha fatto venire un po' di mal di testa. No, ma lasciamo stare Scilipoti, che lascia il tempo che trova. Io le ho telefonato esclusivamente per dirle che, siccome l'ascoltavo e l'ascolto ancora, preferivo quando l'ascoltavo. Ho capito, Danilo. La trasmissione mi sembra un po' più varietà. Lo so. E come diceva la signorina, prenda il mio sfogo per quello che può essere, che certo, no, lascia il tempo che trova. No, perché? Cioè, secondo me c'è bisogno di una trasmissione come lei faceva prima e un po' meno della trasmissione che fa adesso. La ringrazio di questo consiglio, vedremo cosa si può fare. Roberto da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io chiamavo per proporle, vista la sua influenza, di iniziare una sottoscrizione per l'abolizione del gruppo misto. Io la firma ce la metto, se ci mette la sua siamo in due, se ci mette anche quella Parenzo siamo in tre e via. Ma guardi, effettivamente la parola gruppo misto mi fa venire un po' di sembra la, no, il luogo di perdizione dove ci sono. Si va in gelateria, no? Cioè, sì, il frutto dice misto. Sì, effettivamente è bruttina come cosa. No? Quando dice sono finito nel gruppo misto, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Dimissioni non esiste. Però d'altra parte, Roberto, bisogna anche dire che finché resta il fatto che uno non è che può essere incatenato in un gruppo parlamentare, dove va a finire? Va a finire nel gruppo misto perché non ci sono i numeri per creare un. Per dimettersi, andare a casa e tornare a fare il proprio lavoro. Ecco, no? Ogni tanto ci vorrebbe anche quello, esatto. Sicuramente. Ogni tanto ci vorrebbe anche quello. Roberto, grazie. Dobbiamo Buon concludere. Natale, grazie. Dobbiamo praticamente concludere. Vedi che si può essere anche pungenti con una battuta rapida, no? Con una, come ha fatto Roberto da Milano. Tac, vorrei abolire il gruppo misto. Non è che bisogna fare i comizi. Chiudiamo qui però, caro Parenzo. Buon Bunga Bunga, domani ci collegheremo da Bologna. Sì, dal Paladozza, certo. Paladozza, certo. Per questa serata molto criticata con la partecipazione di Parenzo, ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti. Giuseppe d'Avellino, Tommaso provincia di Modena, Paolo da Torino, ci sentiamo domani. Collegamento da Paladozza con Parenzo, domani 18:30. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.